si può fare. Cronache da un paese migliore di Alessio Maurizi. Buongiorno a tutti cari ascoltatori, eccoci qua, ben ritrovati di nuovo con il buongiorno di Radio 24 nel weekend, con Si può fare, stiamo insieme fino alle 10, cominciamo tra poco con un'occhiata ai giornali di oggi, una veloce rassegna stampa che ci porterà fino al giornale radio delle 8, poi andremo al Brennero, alla frontiera tanto contestata tra l'Italia e l'Austria, parleremo con i volontari che danno una mano al passaggio dei profughi, persone che stanno lì cercando di metterci una pezza e ci racconteranno se veramente c'è la chiusura, l'irrigidimento dell'Austria nei confronti dei profughi che transitano dall'Italia. Poi parleremo con Danilo Toninelli del Movimento 5 Stelle nella settimana della scomparsa di Casaleggio, ma parleremo anche dell'approvazione del nuovo codice etico della Camera, basta regali ai parlamentari. Una legge antilobby, vedremo se è una buona notizia. Poi l'iniziativa del Movimento 5 Stelle a Torino, un sostegno anti-Equitalia ai cittadini e ai contribuenti. Questo subito dopo il GR delle 8. Adesso cominciamo con la rassegna stampa. Vi ricordo anche i nostri contatti. Si può fare trattino Radio 24, la pagina Facebook. Potete cominciare da subito a interagire con noi. C'è anche l'account Twitter, chiocciola si può fare 24. Il mio account personale, chiocciola Ale Maurizi. Adesso cominciamo con la rassegna. Oggi il giornale ha un prezzo nuovo, perché notizie più costose, più fresche, più narrate. E allora, migranti, trivelle, un po' di notizie dall'estero sulle prime pagine del giornale di oggi, dove per esempio sul Corriere c'è anche il consueto sondaggio di fine settimana, questa volta riguarda Milano, partiamo da qua, uno spunto in vista delle elezioni comunali. Parisi risale ed è ad un passo da Sala, testa a testa la sfida per Milano. Secondo questo sondaggio, Giuseppe Sala oggi è al 32% delle intenzioni di voto dei milanesi, poco sotto Stefano Parisi che raggiunge il 30%, il PD al 21%, secondo partito Movimento 5 Stelle al 17%, segue la Lega Nord al 16%, poi Forza Italia 11%, Sinistra per Milano 7%, ma dicevamo migranti, avviso all'Austria, Renzi, il Brennero è un simbolo, Vienna rispetti le regole, questo è il titolo principale in realtà del Corriere. Con un documento inviato a Bruxelles, il governo propone un piano che prevede l'emissione di un eurobond per finanziare l'azione di gestione delle emergenze. Inoltre Renzi ribadisce che il Brennero è un simbolo e che se Vienna viola le regole ci faremo sentire. Su Repubblica, titolo principale dedicato sempre a questo, eurobond ai paesi africani, così fermeremo i migranti. Andiamo a leggere allora di che si tratta. Ecco, il Migration Compact è la proposta italiana per risolvere la crisi dei migranti che ieri Matteo Renzi ha inviato alle istituzioni europee. Dunque, insomma, una iniziativa italiana, una novità che speriamo possa avere più seguito di altre iniziative europee, in sede europea dell'Italia, sia col governo Renzi sia in passato. Ci lamentiamo spesso di contare poco in Europa, poi se sia vero o no è un giudizio più difficile da dare, ma insomma questa è un po' una considerazione di fondo. Cosa prevede questo Migration Compact? L'accoglienza a Bruxelles. Prosegue Repubblica dicendo l'accoglienza a Bruxelles è stata buona, diversi governi, anche quelli dell'est, contrari ad una gestione comune dei flussi migratori, lo sappiamo, sembrano però d'accordo questa volta con l'approccio contrattuale proposto dall'Italia verso i paesi terzi, in particolare quelli africani. Qual è l'approccio? Questo: offrire soldi e aiuti in cambio di un impegno a bloccare le partenze verso l'Europa. Lo spirito del Migration Compact è lo stesso dell'accordo con la Turchia sulla rotta balcanica: ti diamo in quel caso 3, ricordo 6 forse miliardi di euro, in cambio blocchi le partenze, controlli i flussi dalla Turchia dei profughi verso l'Europa. Queste 4 pagine inviate dal governo Renzi a Bruxelles, viene proposta appunto l'istituzione di un fondo di investimenti e di specifici bond tra Europa e Africa per aiutare la crescita e l'innovazione. C'è anche un capitolo specifico sulla Libia, con Tripoli l'Italia suggerisce di fare un accordo esattamente come quello che è stato fatto con Ankara, cioè con la Turchia, e quindi anche lì cospicui finanziamenti in cambio di un controllo delle partenze da quel paese. Certo, la differenza è che in Turchia c'è Erdogan, che ha più o meno in saldo, in maniera anche abbastanza vigorosa, il paese. In Libia invece c'è un governo provvisorio appena messo su dalle Nazioni Unite, ma che non dà una grande sensazione di solidità. A proposito invece della Turchia, restiamo quindi all'estero, perché sempre sulla prima pagina di Repubblica c'è la foto del giovane comico Jan Böhmermann, tedesco, che è stato accusato dalla Turchia, da Erdogan in persona, il presidente Erdogan, di vilipendio praticamente. Adesso andiamo a leggere, e adesso il governo tedesco ha dato seguito a questa richiesta della Turchia. Il comico va processato, c'è una procedura particolare che in base a una legge tedesca del fine 800, il paragrafo 103, una norma ottocentesca, scrive Repubblica, è anacronistica, secondo la quale l'onore ferito di un capo di Stato o di governo straniero è da sanzionare. Cosa è successo? È successo che l'8 aprile, durante un programma televisivo, Böhmermann ha preso di mira il presidente turco Erdogan con una poesia in cui sosteneva che avesse rapporti sessuali con le capre, guardasse film pornografici mentre reprime le minoranze, prende a calci i curdi e picchia i cristiani. Ci è andato giù pesante questo comico, una sorta di provocazione, di meta satira per denunciare l'isteria del sultano, cioè di Erdogan, che qualche giorno prima aveva convocato l'ambasciatore tedesco per una banale canzone satirica, anche in quel caso una canzone che prendeva in giro Erdogan a proposito della sua megalomania e la sua tendenza alla censura. Allora, in base a questo paragrafo ottocentesco, se qualcuno in Germania offende un capo di Stato straniero e il capo di Stato chiede il giudizio, il governo tedesco può autorizzare il giudizio, e quindi adesso ci sarà un processo da parte di un tribunale tedesco a questo giovane comico Böhmermann. È stata la cancelliera tedesca a volersi occupare personalmente del caso, dopo essersi consultata con il ministro dell'interno e quello della giustizia, ha giustificato la decisione con una motivazione, scrive Repubblica, incredibile alla luce degli sviluppi. È la giustizia e non il governo che deve avere l'ultima parola sulla libertà di stampa. Cioè, la Merkel dice: non sarò io a decidere se Böhmermann ha insultato o se è degno di ricevere una sanzione per questo, se ha insultato Erdogan, ma sarà la giustizia a farlo. Altrove però si sottolinea, per esempio, vediamo sul Libero in prima pagina, la sottomissione al sultano della cancelliera di Latta. Si dice che Angela Merkel avrebbe potuto facilmente respingere la richiesta di Ankara e quindi dire: nessun giudizio, questo comico non ha violato nessuna legge, questo antico paragrafo della legge tedesca anacronistico, dimentichiamocelo, e quindi in qualche modo non andare dietro al assurde, possiamo dirlo, pretese di Erdogan, che sarà pure stato sì insultato, ma come accade a tutti i potenti della terra, che sono vittime della satira. E va bene, sempre Libero, col commento di Maurizio Belpietro, sottolinea che nella riunione di governo è stata proprio la Merkel, della riunione del governo tedesco, a votare e a far pendere il piatto della bilancia verso questa decisione, perché altri ministri avevano votato contro l'accoglimento della querela turca e invece lei ha votato a favore. Allora, sempre, allora restiamo sul Libero, che si sposta sull'argomento trivelle e ci dà questa notizia: referendum sulle trivelle, Renzi rischia la galera, perché un articolo del codice, questa volta stiamo parlando del codice italiano, ribadito dalla Cassazione, stabilisce una pena di da sei mesi a tre anni, per chi fa propaganda a favore dell'astensione, proprio quello che sta facendo il Premier in vista del voto di domani sul referendum sulle trivelle. I grillini denunciano lui e anche Napolitano. Il segretario di Rifondazione Comunista Paolo Ferrero, il gruppo parlamentare del Movimento 5 Stelle si sono mossi per denunciare il Premier, che appunto ha fatto propaganda per l'astensione al referendum. Anche qua andiamo a ripescare qual è l'articolo, l'inghippo nell'ordinamento giudiziario che prevederebbe questa pena per Renzi. L'articolo 51,2 della legge numero 352 del 1970 in materia di referendum. L'articolo dispone che, virgolettato, chiunque investito di un pubblico potere, qua la questione, o funzione civile o militare, abusando delle proprie funzioni all'interno di esse, si adopera ad indurli all'astensione, è punito con la reclusione da 6 a 3 anni. Questo è quanto, vedremo se queste denunce avranno un seguito, potrebbe diventare anche una vicenda abbastanza curiosa, al di là del fatto politico che rimane che Renzi in effetti ha invitato all'astensione. Io penso che l'astensione di per sé sia un fatto, uno strumento legittimo di lotta politica, altrimenti la Costituzione non prevederebbe un quorum del 50% in questi referendum, e lo dice uno che andrà a votare a questo referendum. Però resta legittimo il fatto di non andare a votare per non far superare il quorum, perché lo prevede la Costituzione. Il fatto poi che a dirlo sia un Presidente del Consiglio che ha un ruolo pubblico, questo è un altro discorso, e secondo quello che scrive Libero qui si incorre nel rischio di una denuncia. Traffico, torniamo tra un attimo. Eccoci qua di nuovo, buongiorno da Alessio Maurizi, cari ascoltatori, e ben ritrovati in nostra compagnia. Come si può fare? Continuiamo a dare un'occhiata ai giornali di oggi, una veloce rassegna stampa, arriviamo fino al GR delle 8. Allora, sul Sole 24 Ore di oggi, le conclusioni del G20, cauto sulla ripresa, Brexit e ISIS alzano i rischi. Queste conclusioni, quindi, diciamo, il referendum sull'uscita della Gran Bretagna dall'Unione Europea e l'ISIS aumentano i rischi nella situazione economica internazionale che sappiamo già essere sufficientemente fragile. Poi informazioni di servizio, perché il 7.30 precompilato nel giorno del debutto, 150.000 collegamenti, primo giorno per la precompilata, sono stati 30 milioni di dichiarazioni predisposte dal fisco, tra 7.30 e unico, che da ieri si potevano consultare sul sito delle entrate. Tante le novità rispetto all'anno scorso, a partire dall'aumento dei canali di accesso, ma soprattutto nei contenuti, con l'arrivo delle spese sanitarie e di quelle universitarie che non erano presenti nel 2015. Sul Sole 24 Ore di oggi il bilancio della prima giornata con le reazioni arrivate dai lettori via email, quindi una lettura istruttiva su questo aspetto. A proposito del G20 e dell'ISIS, c'è una notizia che mi pare abbia in questi termini riporti Repubblica in prima pagina, che è questa: via alla missione, i nostri elicotteri in prima linea contro il califfato in Iraq a Mosul. Cosa succede? Che ci sono 8 elicotteri italiani che interverranno per soccorrere feriti e recuperare soldati accerchiati, se necessario lo faranno anche sotto il fuoco nemico, combattendo e atterrando alle porte di Mosul, la capitale del califfato. Per questo a Erbil, siamo sempre in Iraq, è cominciato lo schieramento della Brigata Friuli, la nostra cavalleria dell'aria, che traduce in tattiche moderne le azioni congiunte di elicotteri e fanti, qua si fa addirittura una citazione cinematografica, rese celebri dal film Apocalypse Now. I primi 4 velivoli sono già arrivati nel Kurdistan iracheno, il resto dello squadrone li raggiungerà entro fine mese. La stampa locale li ha accolti con entusiasmo, i peshmerga non hanno mai avuto un sostegno così potente. I nuovi soldati saranno 130, tutti veterani, specialisti in questo genere di operazione ad alto rischio, ma grazie agli italiani adesso i battaglioni curdi che combattono contro l'ISIS possono contare notte e giorno su 4 elicotteri NH90 che sono tra i mezzi migliori esistenti al mondo. E questa è una notizia importante, perché fino ad oggi credo che l'Italia non fosse direttamente coinvolta nello scenario di guerra all'ISIS. In questo caso il coinvolgimento è pur sempre indiretto, di sostegno a quello che stanno facendo i curdi. Anche perché, come sapete, per un ingresso dell'Italia in qualunque scenario di guerra occorrono dei passaggi parlamentari importanti. In questo caso stiamo parlando del sostegno di questi elicotteri della Brigata Friuli ai curdi, che invece quelli sì sono impegnati direttamente contro l'ISIS. Andiamo Sempre restando all'estero, una, se volete, buona notizia che arriva dall'Egitto. Ieri c'è stata una manifestazione in piazza al Cairo, la rabbia dell'Egitto contro al-Sisi. Finalmente la cosiddetta società civile egiziana appare, si fa vedere, si muove per la prima volta, scrive la stampa, da quando l'esercito ha deposto l'ex presidente Morsi ed è stato incoronato al suo posto allora ministro della difesa al-Sisi, l'attuale presidente, l'Egitto torna massicciamente in piazza intonando Erhal, vattene, e poi anche Ashab Yurid Iskat Anazam, credo ho pronunciato malissimo, che è il popolo vuole la caduta del regime. Gli slogan usati costantemente nelle manifestazioni 5 anni fa contro Mubarak, ma anche 3 anni fa contro i fratelli musulmani che in quel momento erano al potere. Qual è l'oggetto della protesta di ieri al Cairo? È non tanto la repressione fattasi via via più soffocante o il barbaro omicidio di Giulio Regeni, ma la cessione delle isole Tiran e Sanafir all'Arabia Saudita, una rivendicazione nazionalista cavalcata da movimenti nasseriani che pure 3 anni fa avevano assicurato pieno sostegno ad al-Sisi. Quindi insomma, isole svendute ai sauditi, questo grido. Ieri però gli egiziani sono tornati in piazza contro il regime di al-Sisi. Abbiamo poco tempo, due notizie che riguardano due processi diversi. Dalla prima pagina del Corriere, giusto dare questi aggiornamenti. Intanto al processo, al caso Uva, tutti assolti. Dopo 4 ore di camera di consiglio, la Corte d'Assise di Varese ha assolto i 6 poliziotti e 2 carabinieri imputati per la morte di Giuseppe Uva, morto appunto nel 2008, dopo essere stato fermato dalla polizia, dopo aver subito un trattamento sanitario obbligatorio in ospedale. Inizialmente erano stati condannati i medici, poi si è scoperto che Uva aveva una malformazione al cuore, ma è insomma, è l'ennesimo caso. I familiari hanno gridato maledetti, maledetti, al momento dell'assoluzione dei poliziotti e dei carabinieri. Resta ancora però da capire se di fatalità si è trattato per la morte di questa persona nel 2008 oppure se c'è una verità ancora da accertare dal punto di vista giudiziario. L'altra notizia è Formigoni, IPM chiede 9 anni perché Formigoni ha sempre mentito. IPM chiedono 9 anni di carcere per l'ex governatore della Lombardia imputato per corruzione nel caso Maugeri. La difesa dice non ci sono prove. Vi voglio lasciare invece con una notizia che è la prima pagina del Giorno. Cibi sani, che ossessione. C'è un'inchiesta e un'intervista a uno psichiatra, una psichiatra, Sara Bertelli, presidente dell'associazione Nutrimenti Onlus, che dice a proposito del cibo sano, attenzione, nasce da questioni giuste come allergie o voglia di mangiare bene, ma sta diventando una ossessione che porta all'isolamento sociale e a diete troppo restrittive. Ci fermiamo qua, ci risentiamo dopo il GR delle 8 con Si può fare. A dopo, ciao! Il segnale orario vi è offerto da... Unica, l'assicurazione con la Q di qualità. Pensa Unica. Si può fare. Si può fare. Cronache da un paese migliore. Uptown funk you up, 'cause Uptown funk don't give it to you, 'cause Uptown funk don't give it to you. Don't believe me, just watch. Buongiorno a tutti cari ascoltatori da Alessio Maurizi. E buongiorno da Carlo Gabardini e buon sabato. Quando sono le 8 e 19 minuti riparte, inizia una nuova puntata di Si può fare, un weekend insieme. Stiamo insieme fino alle 10, 800 24 00 24. Carlo? Milano, Monte Rosa? Sole, bellissimo sole. Vabbè, l'altro ieri abbiamo detto è arrivata la primavera, dobbiamo quasi dire è arrivata l'estate. Non so, è bello. Pam, in un attimo, pam. È proprio già la parte bellissima della primavera e viene voglia di innamorarsi. A Milano fiorisce il design, cari ascoltatori, lo sapete. C'è il salone del mobile, ci sono gli spazi del fuori salone in città. La città è impazzita, ne hanno parlato anche i telegiornali. Per i non milanesi, il Salone Internazionale del Mobile è un indotto importante per l'Italia, l'industria del mobile, del design, eccetera eccetera, e noi però vogliamo anche un po' convocarvi e ingaggiarvi su con una risata, perché in effetti, Carlo, sì, signore, questi oggetti di design che sono bellissimi in esposizione, ma tu te li porteresti a casa? Ci sono delle robe Lo so. Ma insomma, io da milanese non posso dire il quantesimo salone del mobile è, ma è un numero molto alto. È molto alto perché da quando sono bimbo si va al salone del mobile. Il salone del mobile è sempre stata una festa. Da giovane è bellissimo il salone del mobile perché è proprio il fatto che dici in qualunque negozio tu entri e chiedi degli aperitivi sostanzialmente. Esatto, il salone del mobile è la birretta la sera in zona Tortona o no, ma la birretta la sera, d'accordo, ma qua è proprio il fatto che tu entri in qualunque negozio a qualunque ora, praticamente fai finta di essere interessato a qualunque oggetto ci sia e chiedi un bicchiere di vino. Sì. Siccome in alcune zone i negozi che si occupano di mobili sono tanti, anche i negozi che non si occupano di mobili, c'è stato un lungo periodo negli anni in cui si adeguavano e quindi tu entravi anche in edicola e dicevi: senta, che bello questo giornale, posso avere un bicchiere di Barbera? E di te lo davano. Un bicchiere di design, esatto. Chiaramente. E poi sono abbastanza la passata, nel senso che non sono un esperto di design, tendenzialmente. Però io qualche cosa mi piace tutto. Anche ecco. A me è divertente, però possiamo dircelo: quello che piace a me è brutto per te, ma ci sono degli oggetti che sono straordinariamente brutti. Per esempio, io cito alcune, me le sono segnate, non so, c'è lo spremiagrumi fatti a forma di sgabello, dove al centro dello sgabello, dove si poggiano normalmente le natiche, c'è proprio il coso per spremere l'agrumi. Vabbè, ma quello è un gioco, solo anche perché lo spremiagrumi per il salone del mobile è assolutamente lo spremiagrumi di Stark, che è un famosissimo designer, oppure, quindi è quello. Oppure bellissimo c'è la spugna da bagno fatta a forma di microfono, così tu poi, mentre fai il bagno, puoi anche cantare. Beh, questa è divertente. È indispensabile, direi. Mai più senza questa. Cari ascoltatori, se avete visto in questi giorni al salone o se avete nelle vostre case, che so, le bomboniere, spesso ti regalano le bomboniere, non puoi buttarle via perché per qualche anno devi tenerle lì. Sono degli oggetti spesso bruttissimi. Fate una foto, twittate al nostro account, @ si può fare 24, ai nostri personali, @ le Maurizi. E @ Carlo Gabardini. Oppure su Facebook postate le foto, si può fare @ Radio 24. Oppure chiamateci @800 24 e provate nell'ardua impresa di descriverci l'oggetto. Che è la parte più bella. Il design più assurdo e anche più brutto che avete visto. Per esempio, il dosa sapone a forma di naso. Tu schiacci la narice. E viene giù dall'altra. Perfetto, stupendo. Così puoi avere anche due gusti di sapone. Terrificante. 800 24 00 24. Vi aspettiamo anche oggi in palio i biglietti e il catalogo della mostra di Miro al fantastico MUDEC di Milano. Adesso andiamo ad iniziare. Andiamo al Brennero, parliamo di cose. Andiamo al Brennero, serie. Io inizio a partire, ti aspetto al confine. Fai le valigie, andiamo al Brennero, vediamo di che si tratta. Poi avremo con noi il Movimento 5 Stelle nella settimana della scomparsa di Casaleggio, ma anche nella settimana in cui si è approvato il codice della Camera che dice stop ai regali ai parlamentari sopra una certa cifra. Sopra i 250. Vero? L'hanno anche un po' alzata, ho letto, ma dopo ne parliamo. Davvero, vediamo. Intanto iniziamo. Vai. C'è qualcuno che può rompere il muro del suono mentre tutto il mondo si commenta da solo. Il cerino sfregato nel buio fa più luce di quanto vediamo. C'è qualcuno che può rompere il muro del suono. Sotto gli occhi impegnati in ben altro del mondo, ogni storia è riscritta in economia, con i pitbull mollati a sbranare per strada e due padroni che stanno fumando. Chi doveva pagare non ha mai pagato l'argenteria. C'è qualcuno che può rompere il muro del suono. E allora, con il muro del suono di Ligabue, vi ricordo che tutte le nostre scelte musicali le ritrovate sulla pagina di Si può fare sul sito di Radio 24, c'è la playlist di ogni puntata. Qua più che di muro del suono stiamo parlando di un muro vero e proprio, quello che l'Austria vuole costruire al confine del Brennero con l'Italia per evitare proprio che passino verso l'Austria, verso Vienna e in transito anche verso altri paesi del nord Europa i profughi gli stranieri, i migranti che vengono appunto dall'Italia. Dove... Quindi basta che restino da noi, è questo il concetto? Il concetto è questo, basta che non vadano da loro, poi se invece restano da noi vanno in un'altra parte, purché non certo. sia l'Austria. È un po' il clima che regna in Europa in questi mesi sulla questione migranti. Noi andiamo con molta umiltà e con il cappello in mano al confine del Brennero a parlare con un volontario, una persona che dà una mano, ci mette una toppa, fa parte dell'associazione Voluntarius di Bolzano. È con noi di nuovo Roberto Defant, buongiorno. Buongiorno, buongiorno a tutti. Buongiorno. E ancora grazie per quello che fate, cercate di dare una mano in alcuni casi portando un po' di supporto, in altri quasi sostituendovi a quello che dovrebbero fare, cioè le autorità, dare una mano ai poveri cristi che passano. Poi possiamo distinguere tra profughi, persone che non hanno diritto all'asilo, immigrati economici e quant'altro. Umanità varia, ma le scene che abbiamo visto ai domeni sono molto allarmanti e preoccupanti. Per fortuna per ora lì non succede la stessa cosa. Roberto, però intanto le chiedo qual è la situazione al confine in questi giorni, al passaggio dei profughi dall'Italia verso l'Austria. Ma la situazione è molto tranquilla, non è successo ancora assolutamente niente. L'allarme che è stato creato per i lavori e per i progetti che ci sono, non ancora per fortuna per una presenza di persone, di persone in transito rilevante. In questi ultimi mesi i numeri sono calati moltissimo e sono costanti. Quindi meno dell'anno scorso, meno profughi al passaggio. Quanti sono mediamente in una giornata? Noi non siamo in grado di dare dei numeri precisi, sì. perché noi possiamo vedere le persone che fisicamente intercettiamo, cioè quelli che scendono da questi treni o cambiano questi treni. Per cui sono numeri che in questi ultimi periodi sono assolutamente irrilevanti. Ma e come mai invece 150-200 che potevano essere l'anno scorso sì. quotidiani? Ma come mai invece a noi sembra invece un momento di grande allarme, appunto addirittura si parla di fare il muro piuttosto che... Cioè mi sembra che le notizie che arrivano da noi è che stanno aumentando, invece mi sembra molto tranquillizzante, ci sta dicendo che invece non è vero per niente che stanno aumentando. Il problema non è in questo momento, ripeto in questi giorni, il problema non è numerico, evidentemente il problema è culturale. Lei ha fatto un accenno molto importante prima rispetto a quanto stiamo considerando le figure di queste persone che si muovono nel mondo, il profugo economico piuttosto che il profugo di guerra, no? Se un attimo sarebbe interessante fermarsi su questo concetto per capire come i cittadini d'Europa potrebbero muoversi rispetto a questa situazione. Queste certo. persone hanno già determinato non un problema e tantomeno un'emergenza, hanno determinato il cambio di un'epoca, è finita un'epoca, ne è cominciata un'altra. Questo è verissimo. Non abbiamo capito ancora questo concetto. Ci stiamo prendendo le misure, sicuramente ci vorrà tempo. Roberto, le vorrei chiedere, intanto, secondo lei c'è una spiegazione di questo calo rispetto all'anno scorso, per esempio, di profughi che passano proprio per la frontiera del Brennero? Ci sono spostamenti verso altre... Il flusso grosso è passato dai Balcani. Dai Balcani. Evidentemente passare via terra è molto più sicuro che non affrontare dopo il deserto, affrontare il Mediterraneo. Quindi, il Mediterraneo scusi, purtroppo è una fossa comune sì. ormai. A maggior ragione questo allarme, questa alzata di scudi dell'Austria che vorrebbe alzare, almeno in alcune dichiarazioni di politici, però di primo piano, addirittura muri al confine col Brennero, a maggior ragione poco giustificato, perché se stanno diminuendo questi flussi, che senso avrebbe costruire adesso un muro? Vi sembra un'ipotesi verosimile questa dell'Austria che tira su, voi che state lì, ecco, voglio dire che ci vivete e che avete un po' il polso della situazione, anche per come si comportano le autorità austriache, l'ipotesi della costruzione del muro? Noi siamo un primo livello di intervento, per cui la nostra preoccupazione è incontrare le persone che scendono da questi treni con il carico di sofferenza e dolore che si portano dietro e dare loro, per il tempo che rimangono al binario, la sensazione di un'accoglienza, di un riconoscimento della loro dignità in quanto esseri umani. Dopodiché vediamo che cosa sta succedendo, vediamo dall'altra parte che ci sono queste ruspe che stanno lavorando. Ascoltiamo i comunicati e quello che il governo austriaco sta dicendo. Gli ultimi comunicati hanno determinato una leggera inversione rispetto a questa teoria del muro. Sembra che parlino di corridoi, che parlino di controlli, di possibilità di fare controlli più intensificati. Cioè che in realtà sia una questione di gestione, mi sembra, dagli ultimi comunicati dicono non è un muro, è il fatto di riuscire a gestirla in un altro modo. Esatto, e bisogna vedere poi evidentemente dentro tutto questo sistema, questa idea, quanto la dignità di ogni singola persona sia considerata e rispettata. Per noi Voluntarius la dignità di ogni singola persona è fondamentale. Non stiamo parlando dei profughi, ma stiamo parlando di ogni singola persona che intercettiamo, che incontriamo al binario di quella stazione. Giustissimo. È un cambio di logica rispetto a quello che sta succedendo, insomma. Ma posso chiedere, perché a proposito di cambio, mi sembrava molto interessante la cosa che stava dicendo. Diceva, forse dobbiamo capire che questo non è un problema, ma è il cambio di un'epoca. Assolutamente. In che senso? Se io ho la fortuna di incontrare in tutta la provincia di Bolzano studenti di tutte le scuole, gruppi di adulti, eccetera, e a tutti propongo una nuova visione di questo tipo di realtà, e vedo che sorprende molto questa cosa. E la proponga anche a noi. Il profugo non è un profugo di guerra o un profugo economico. Il profugo è una persona che non ha la libertà di vivere nel proprio paese, sintetizzando al massimo, o perché lo uccidono da una parte, o perché non può mangiare, non può costruire una vita per sé e per la propria famiglia dall'altra. In entrambi i casi sono persone che non hanno la libertà di vivere nel proprio paese. Allora il pensiero volontario, da questo punto di vista, è molto semplice. Ogni essere umano ha il diritto di trovare in ogni parte di mondo non un posto perché qualcuno buono glielo concede, ma il proprio posto. È la visione di questa nuova epoca che dobbiamo imparare a riconoscere e ad organizzare. Mi come collego, Roberto, con quello che sta dicendo lei per ritornare sulle notizie delle ultime ore e dire che è talmente vero quello che dice lei che alla proposta italiana in sede europea di creare un Eurobond o comunque un finanziamento specifico per i paesi africani coinvolti dalle migrazioni e quindi in cambio di un controllo dei flussi in partenza e quindi il famoso aiutiamoli a casa loro per creare quelle condizioni di vita e di libertà di cui lei parlava, sembra che abbia ricevuto un'accoglienza positiva anche da molti paesi che, come l'Austria per esempio, sulla questione dell'immigrazione sono molto duri, stanno parlando di chiudere le frontiere, eccetera, eccetera. È un cambio d'epoca, qualche cosa bisogna fare, c'è questa proposta italiana, vedremo se sarà meno estemporanea di altre proposte che poi non hanno avuto seguito. Agli ascoltatori voglio dire, se vogliono intervenire all'800 24 00 24 per dire la loro su questa questione, sui rapporti tra l'Italia e l'Austria. C'è chi scrive: l'Austria fa bene, perché dovremmo trattenerli in Italia per creare una bella Molenbeek anche da noi? Scrive un ascoltatore che non si firma al 349-238-6666. Io dico semplicemente: impariamo a distinguere tra Molenbeek, il quartiere ghetto dei musulmani a Bruxelles, e il passaggio dei profughi alle frontiere, gente che è appena arrivata con una valigia di avvolta dallo spago in mano e una vita ancora da crearsi, e quindi cioè, anche un po' di umanità per favore, perché sennò perdiamo il senso delle proporzioni. Nessuno vuole creare Molenbeek al Brennero, no? Non credo, Roberto, vero? Ci mancherebbe altro, assolutamente. Sono situazioni quelle che a monte di questi problemi vanno evitate, per cui il ghetto comunque nella storia sappiamo ha solo prodotto dei danni enormi. Stiamo parlando di volontari che danno una mano ai profughi in transito, anzi in questo caso a persone che vanno dove magari hanno già famiglia, in Germania, altrove, vanno a raggiungere i loro punti di riferimento, se ce li hanno in Europa. Grazie Roberto Defant per essere stato con noi, buona giornata. A voi altrettanto, buon lavoro. Grazie mille, buon lavoro, buona giornata. E allora, aspettando i vostri interventi, cari ascoltatori, al numero verde, anche però per parlare di un argomento sicuramente più leggero, come è quello del design italiano nella settimana del Salone del Mobile a Milano. Noi vi chiediamo di raccontarci con parole l'oggetto di design più assurdo che avete posseduto, che è entrato in casa vostra perché vostra moglie ha dovuto per forza comprare quella cosa assurda. Adesso avete l'occasione di sfogarvi e di liberarvi di questo peso. Mi fa veramente schifo. O che vi hanno regalato. O che vi hanno regalato. Quelle classiche cose con la reazione nel momento che uno lo vede e dice: ah, bello, mi serviva proprio. Ma cosa servirà soprattutto? 800 24 00 24 tra un attimo. Eccoci qua di nuovo, buongiorno da Alessio Maurizi e da Carlo Gabardini. Cari ascoltatori, 800 24 00 24, c'è Werner che ci chiama da Bolzano. Buongiorno Werner. Good morning, D. Buongiorno. Su cosa voleva intervenire Werner? Allora, volevo intervenire solo per quella questione della chiusura del Brennero e così via. Sì, certo. Lei è nei paraggi, Werner. Allora, ieri per caso ero a Lienz, che naturalmente è un'altra parte del Tirolo, sì, in parte austriaca, e si stava parlando anche di questo tema. Sono passato per motivi di lavoro anche attraverso Kieferfelden, che è il confine tra l'Austria, il Tirolo austriaco e la Baviera. Naturalmente sì, il flusso per i controlli verrà ridotto, per meglio dire, ci saranno dei rallentamenti. Ma non questi allarmismi, devo dire, mi preoccupano, perché anche dal punto di vista politico qui si sta rompendo della porcellana praticamente. Per forza maggiore gli stati... No, in che senso? Cioè, ci devi spiegare questa forma retorica che dal punto di vista politico si sta rompendo della porcellana? Sì, perché prima di gridare al lupo, si deve andare a vedere come era stata gestita la situazione, per esempio tra l'Austria e la Germania, già alcuni mesi fa, dove passavano migliaia e migliaia di profughi ogni giorno. Praticamente sul confine austriaco-germanico si stava rallentando il traffico e naturalmente da controlli a vista si passava anche comodamente. Naturalmente non si passava a 100 all'ora, ma si passava a 50 all'ora o a 30 all'ora praticamente. Naturalmente ci saranno delle cose, ma comunque non è una cosa da spararsi. Lei dice che al momento la situazione è gestibile anche per chi, se ho capito bene, passa semplicemente non c'è nulla. Spostamenti di merci o passaggi anche di persone, perché ricordiamo, grazie intanto Werner, che da questa frontiera, dal Brennero, transitano anche c'è un traffico merci che per l'Italia e anche per l'Austria naturalmente è importantissimo. Di lì passano per esempio le esportazioni italiane verso la Germania, parliamo di miliardi di euro di traffico merci ogni anno. Quindi c'è anche un po' di preoccupazione, perché capite che un rallentamento dei flussi avrebbe una ricaduta anche su questo aspetto, che non c'entra nulla con i profughi, ma c'entra con tutto il resto della normale vita di tutti i giorni. Tamara dalla provincia di Reggio Emilia, buongiorno, benvenuta. Buongiorno. Ascolti, io volevo intervenire per quanto riguarda l'immigrazione economica. Quella politica la lasciamo stare, perché si muovono per motivi di destabilizzazione, eccetera. Sì. Per quanto riguarda l'immigrazione invece economica, si può veramente aiutarli a casa, ma non dando direttamente dei fondi ai governi. Sì, l'Europa continua a collaborare ai governi che ci sono ancora in Africa, mi creda che l'immigrazione economica non finirà mai. Perché? L'altro giorno Renzi era in Iran su Facebook e l'ho scritto: a volte bisogna anche collaborare con i più piccoli, perché sì, hanno anche delle idee, conoscendo le zone, sì, eccetera, possono fare anche tante cose, capito? Però sì, diamo direttamente i fondi ai governi che ci sono in Africa, no, niente cambierà. E quindi come bisogna fare? Nel senso, lei sta dicendo, bisogna aiutarli da loro di modo che non vengano da noi, però non bisogna dargli i soldi. Non direttamente ai presidenti che ci sono lì. Si può collaborare con le organizzazioni non governative, sì, perché sì, ci sono. Vede, si può fare anche a livello di microeconomia. Io ho fatto una tesi all'università qui, ho studiato qui, su come combattere l'immigrazione economica. E si possono fare tantissime cose. È vero quello che le dice Tamara. Direttamente. Sì, sì, no. Io la ringrazio. Intanto è chiaro quello che sta dicendo Tamara, no? Ci sono tanti governi che sono corrotti, che sono magari dei regimi, non so, in questa proposta di aiuti si parla anche della Libia, in questo caso si parla di un governo appena messo su dalle Nazioni Unite, di cui non si percepisce ancora la solidità, ma insomma Tamara ci metteva in guardia dal rischio di dare soldi a governi fantoccio, a governi corrotti, e quindi di come si vuole, sputtanare miliardi di euro in nulla, e invece attivare progetti di microcredito, di microeconomia, eccetera, eccetera. Quindi

pensavo il nuovo titolo della nostra trasmissione. Si può fare e voglio di più. Ci sta, ci starebbe anche quello. Diamo il buongiorno a Danilo Toninelli, deputato del Movimento 5 Stelle. Buongiorno. Buongiorno a voi e a tutti i radioascoltatori. Buongiorno. Sì, si può volere di più, per noi è uno dei principi importanti. Toninelli, per dire, quello coi ricciolini e gli occhiali, se qualcuno adesso non l'avesse visualizzata, la radio non si vede il volto, però il volto è quello. Toninelli, sì. Voglio di più, perché in questo caso noi l'abbiamo presa come una buona notizia, voi però vi siete astenuti. Nuovo codice etico per i deputati, vietati i regali sopra i 250 euro e anche altre cose. C'è stato un voto alla Giunta Regolamento della Camera dei Deputati che ha approvato questo codice etico, appunto, che non prevede sanzioni, ecco, questo si può dire già subito per chi lo viola, però tutto viene pubblicato sul sito e chi si mette fuori da queste regole in qualche modo può essere un po' messo alla gogna. Ci spiega se questo è un passo in avanti nel ridimensionamento della casta e anche perché voi invece di votare a favore vi siete astenuti, voi che siete un po', diciamo, i paladini di questo tipo di battaglie. Beh, noi innanzitutto se lo siamo e la applichiamo a noi stessi, la regola di trasparenza, come sai, ci dimezziamo gli stipendi, restituiamo i soldi pubblici e così via. Io ho partecipato in prima persona a tutti questi lavori, abbiamo detto, ho detto alla Presidente Bolzerini, va benissimo, aggiungiamoci anche un codice per i lobbisti, e si sta parlando anche di questo, ma hai già dato tu il motivo per cui ci siamo astenuti, ma secondo te, secondo voi è normale indicare delle regole di comportamento importanti sui regali? Non li puoi ricevere se supera i 250 euro, devi dire che incarichi ricopri, se vai a fare parlamentare, quanti soldoni c'hai e così via, ma se non lo fai non accade nulla. Non succede niente. È come se c'è un divieto di passare col semaforo rosso, tu lo fai, passi col rosso, ti ferma il vigile e non fa altro che dirti sì, però dovevi ricordarti che si passava col verde, non col rosso. No, si guarda. E adesso lo dico a tutti, perché questo, no, l'unica sanzione che c'è è la gogna, quindi semplicemente il vigile che dice adesso dico a tutti che si è passato col rosso. Bravissimo, bravissimo. E noi sappiamo, tra l'altro, che non è che siano così facili e accessibili i siti istituzionali. E la gogna, quella che viene definita la sanzione, la gogna mediatica, noi sappiamo per certo che non ci sarebbe. Quindi questa purtroppo è una mera formalità. E la motivazione qual è? Il 26 di aprile, quindi tra pochi giorni, il Greco, che è un ente internazionale sulla trasparenza all'interno delle istituzioni, viene a fare un controllino, a bussare alla porta della Presidente Boldrini. La Presidente Boldrini risponderà aprendo la porta, facendo vedere questo documento. Formalmente l'Italia è a posto, sostanzialmente l'Italia non è a posto. Senta Toninelli, però è chiaro la differenza che lei fa tra una sanzione effettiva e invece un semplice, appunto, messa alla gogna, ma non è questo un po', non è così che dovrebbero funzionare i codici etici, per l'appunto, altrimenti si entra in un altro versante, no? Che è quello, in un altro fronte, che è quello dei regolamenti stringenti veri e propri. Ci sono molte categorie, credo anche i giornalisti, ci sono dei codici etici e c'è una moral suasion affinché debbano essere, diciamo, rispettati. Tutti capiscono anche i limiti di questa cosa, però è intrinseco nel concetto stesso di codice etico. Voi invece avreste voluto qualche cosa di più. Guarda, io la prossima settimana sono sospeso dai lavori dell'Aula, perché io insieme a altri 41 colleghi, poche settimane fa, c'era un decreto di lavorazione alla Camera che permetteva alle banche di pignorare la casa dei cittadini mutuatari che avevano un ritardo nel pagamento delle rate di 7 magari su 200 rate, quindi poche centinaia di euro. Sono stato sospeso perché abbiamo cercato di alzare l'attenzione sull'argomento, abbiamo bloccato per 5 minuti un corridoio di una commissione alla Camera. Quella è una sanzione. Noi abbiamo chiesto di applicare delle sanzioni. Va bene la pubblicità, anche in questo deve caso, essere effettiva, certo. Ma una sospensione. Ma tra l'altro io, che ho studiato un attimino la materia prima di andare in giunta per il regolamento, ho verificato che al Parlamento europeo, come ad esempio in Gran Bretagna, chi non rispetta le regole di trasparenza viene punito con una sospensione. È molto diversa la situazione se tu ti viene imposto un divieto per 10-20 giorni di andare in aula. Quella diventa una notizia, quella è una sanzione, tu stai molto più attento prima di pensare di violare le regole. Purtroppo è questa la sostanza. Sì, io, certo. No, questo è molto chiaro. La cosa che mi chiedo attraverso questo meccanismo, che tra l'altro è un problema che secondo me voi ci mostrate molto spesso o ce lo insegnate anche, cioè la cosa che mi chiedo è quando si vuole 100, quando si vuole raggiungere 100, quindi giustamente voi dite noi vogliamo di più, è giusto o è sbagliato iniziare a raggiungere 50, 25 o 2, perché giustamente come ci sta spiegando dice vabbè ma se non c'è una sanzione equivale a molto poco, cioè non è giusto iniziare a votarla questa dicendo però è veramente troppo poco, ma intanto la votiamo, non è che rischiamo di far sì che questa cosa neanche passi. Ma se si fosse trattato di 25, di 50, io ti dico che l'avrei votata, l'avremmo votata tranquillamente. Qua si tratta di zero. Ok, qua va non bene. Non si tratta di nulla. Noi siamo stati mandati, noi siamo cittadini, che sono stati mandati da altri cittadini a fare gli interessi dei cittadini. E i compromessi al ribasso per noi non esistono. Noi una cosa, o è giusto o sbagliata, non è che noi accettiamo una cosa perché ci fa fare una bella figura. Mi sento di dire che sono d'accordo in effetti su questo, personalmente per quel poco che conta, però è chiaro che se tu vuoi vietare veramente un comportamento che ritieni scorretto, allora devi mettere una sanzione, altrimenti rischia di diventare solo fumo negli occhi. Tra l'altro sarebbe stato possibile farlo, quindi c'era un accordo implicito tra tutte le altre forze politiche ad esclusione nostra di non farlo, quindi loro hanno timore, siccome all'interno, diciamolo chiaramente, i partiti sono portatori di interessi particolari, molto spesso di aziende. Abbiamo visto ad esempio l'ultimo emendamento famoso del Tempa Rossa sul giacimento di petrolio in Basilicata, ci sono degli interessi e loro sanno perfettamente che se inserisce una sanzione chi va a colpire loro. Noi siccome siamo stati mandati a tempo determinato per ricoprire gli interessi o soddisfare gli interessi generali dei cittadini, noi quelle norme certamente non si avrebbero colpito. A noi dispiace molto. Non abbiamo votato contro perché sono diciamo valutazioni di principio molto buone, va bene che si inizi a parlarne, ma devono essere concretizzate, essere lettera scritta. Non avete votato contro, questo è giusto anche ricordarlo, vi siete semplicemente astenuti, giusto? Sì. Con Danilo Tolinelli del Movimento 5 Stelle, torniamo tra pochissimo dopo il traffico, parliamo anche del futuro del Movimento dopo la scomparsa di Gianroberto Casaleggio e anche di un'iniziativa che è il Centro di Soccorso Anti-Equitalia che avete messo in piedi a Torino, tra un attimo. Eccoci qua di nuovo, buongiorno e ben ritrovati da Alessio Maurizi e da Carlo Gabardini, buongiorno, buon sabato a tutti. Vi aspettiamo all'800 24 00 24, cari ascoltatori, per commentare quello che sentite. Siamo partiti intervistando i volontari del Brennero, quindi abbiamo affrontato questo argomento dei rapporti tra l'Italia e l'Austria per il passaggio dei profughi. Adesso stiamo parlando con Danilo Tolinelli, Movimento 5 Stelle. Subito a ridosso della notizia della scomparsa di Gianroberto Casaleggio, Tolinelli, si è cominciato a parlare di una sondaggio online, di una primaria online, come avete fatto altre volte, per stabilire chi sarebbe stato il leader del Movimento 5 Stelle, candidato premier alle prossime elezioni. Invece poi questa notizia è stata smentita, per esempio ieri, da Roberto Fico, proprio dai microfoni di Radio 24. Cosa cambia adesso nel futuro del Movimento dopo la morte di Casaleggio? Allora, io penso che quella, innanzitutto, la dell'ipotetica votazione di un premier avrebbe potuto smentire un qualsiasi attivista del Movimento 5 Stelle sul territorio nazionale, ma per il semplice fatto che il Movimento 5 Stelle prima è un programma, sono prime delle idee, degli argomenti, che è una leadership. Io penso che in questi 3 anni di Parlamento l'abbiamo dimostrato. Dal mio punto di vista non cambia nulla. Quando mi chiedono cosa farete nel futuro, cosa accadrà in futuro, io gli rispondo: il futuro è già adesso per il Movimento 5 Stelle, perché quel personaggio straordinario di nome Gianroberto Casaleggio ci ha insegnato, io tutte le volte che l'ho incontrato ci ho discusso, ci ha insegnato che noi non siamo persone singole che combattono contro, o meglio, che combattono per cercare di migliorare le cose per tutti. Siamo una comunità. Quando sei una comunità e tutti siamo convinti di questa cosa e siamo uniti nella stessa battaglia, ad esempio per approvare finalmente il reddito di cittadinanza che elimina il ricatto lavorativo, che elimina il ricatto del voto e che libera i cittadini italiani finalmente dal voler poter fare quello che vogliono, noi siamo uniti in questa battaglia, quindi non abbiamo leader. E poi io mi permetto sempre di ricordare che nel Movimento 5 Stelle si fanno 2 mandati e negli altri partiti leader rimangono per 30 anni all'interno del partito, da noi ci rimane 8-10 anni se ti va bene. Quindi non esistono leader, sono le idee leader del Movimento. Sì, no, uno vale uno. Questo è molto chiaro, però la domanda che ci si fa a tutti è: siccome Casaleggio un certo tipo di decisioni le prendeva, adesso chi prenderà quelle decisioni? Se le prenderà Beppe Grillo da solo, perché prima le prendevano insieme, o qualcun altro? Ma io cambierei il verbo, non prendere, ma condividere. io ho insieme a Gian Roberto e a tanti altri colleghi preso decisioni per quanto riguarda ad esempio l'ultima in ordine di tempo, la proposta di legge sulla trasparenza nei partiti. Quando parlo di trasparenza parlo di soldi, non parlo di altre cose. Non parli di vetro. Come dice? Non parla di vetro. No, non parlo di vetro, parlo di soldi che arrivano nei partiti, che oggi purtroppo non c'è trasparenza su chi finanzia i partiti. Certo. Ecco, noi abbiamo studiato l'argomento, abbiamo creato un progetto di legge, poi ci siamo sentiti, ne abbiamo discusso e l'abbiamo condiviso. Quindi non c'è una persona che prende o che prendeva, però, no, che non c'è più che prendeva una decisione. Torinelli, però c'è un aspetto, sì. C'è un aspetto che pone una questione specifica, secondo me, è quello della il vostro movimento si muove molto sulla piattaforma online, sul blog di Beppe Grillo, sui meccanismi di diffusione delle notizie e di condivisione anche attraverso il voto online delle vostre decisioni. È giusto che questa piattaforma, che è privata, passi in eredità, quindi sostanzialmente al figlio di Gian Roberto, Davide Casaleggio, per esempio? Ma io penso proprio di sì, e questa evidentemente è una decisione, una conferma che viene data o che verrà data, che è già stata data dallo stesso Beppe Grillo, che è l'inventore e il fondatore insieme a Gian Roberto Casaleggio. Ma se Davide Casaleggio avesse delle idee diverse da Gian Roberto e che non sono le vostre, potrebbe succedere qualche cosa di strano? Ma no, io non vedo nessun tipo di problema. Gian Roberto Casaleggio ha lasciato in eredità Rousseau, che è lo strumento di condivisione delle decisioni che noi utilizzeremo a tutti i livelli, a livello comunale, a livello regionale, a livello nazionale. Io ad esempio avrò la responsabilità di gestire, di controllare, di organizzare le proposte di legge che arrivano dalla rete, che se superano un certo numero di feedback diventano proposte di legge a livello nazionale. Il Movimento 5 Stelle è un qualche cosa da intendersi visivamente come orizzontale. I partiti, in particolare il partito di Renzi, lo vedo come una scala in cui Renzi vuole stare sul gradino più alto e fa salire ad ogni gradino solo i suoi amici. Difatti sta occupando, diciamo, le poltrone di Stato più importanti con compagni di scuola, amici di quant'altro, soprattutto toscani. Io non ho nessun tipo di preoccupazione, perché secondo me e secondo noi il Movimento 5 Stelle è già nel futuro, perché il metodo di lavoro, il metodo di condivisione, di stare insieme, già Roberto Casaleggio e Beppe Grillo ce l'hanno già dato. Noi le armi in mano le abbiamo per combattere e andare avanti. Ma quindi chi sarà il premier, il candidato premier, lo deciderà la rete con una consultazione? Ovviamente, a suo tempo. Ora non c'è urgente. Ora quando c'è urgente sarà il momento? Leggi importanti, quando sarà necessario. Però quello che voglio dire è, non bisogna concentrarsi sulle persone. Il fallimento della politica basata sul leader carismatico, mi sembra che lo dica la storia. Noi siamo già qualcosa di diverso. Prima vengono gli argomenti. I nostri candidati, sindaco ad esempio, parleremo se mi date la possibilità di Chiara Appendino a Torino, stanno portando avanti prima del loro volto, prima di loro stessi, gli argomenti. E questa è la rivoluzione culturale per cui siamo nati. Io sono più che convinto che riusciremo a concretizzare. Ecco, questo mi interessa, perché chiaramente della leadership nel Movimento 5 Stelle si continuerà a scrivere, a parlare anche in parte a vuoto, poi diventerà un momento in cui se ne parlerà concretamente, perché dovrete pur decidere. Invece l'iniziativa di Torino, è vero che avete fatto risparmiare 7 milioni di euro di tasse ai cittadini attraverso il centro di soccorso Antiquitalia, come? È assolutamente vero, grazie soprattutto all'iniziativa di un amico e collega, Carlo Sibilia, che ha la responsabilità di seguire a livello nazionale l'apertura di quelli che sono SOS e Antiquitalia. Non sono centri di consulenza, quello lo fanno i professionisti a pagamento. Noi accogliamo, grazie degli attivisti sul territorio, evidentemente anche con una certa competenza in materia, quelle persone che sono vessate da Equitalia. E sappiamo tra l'altro che Equitalia, ed è una cosa sconcertante, ha un aggio, riceve un aggio sulle riscossioni dei tributi ai cittadini. Cioè tu devi 100, arriva Equitalia e ti fa pagare 110 perché guadagni una percentuale sui tributi, e non è la percentuale dei costi fissi della gestione del recupero credito, chiamiamolo così, ma è un vero e proprio guadagno, perché Equitalia è un SPA. Quindi capite come siamo un mondo a testa in giù. Qua ci vuole, il nostro obiettivo è abolire Equitalia. Abbiamo già lavorato 24 cartelle esattoriali per 24 milioni di euro e scoperto nei 9 punti Equitalia che abbiamo finora aperto in Italia, che 7 milioni su questi 24, per tanti motivi, cartelle che erano debiti prescritti o conteggi sbagliati da parte di Equitalia, non dovevano essere restituiti. Tra l'altro, concludo, per non prendere troppo tempo, abbiamo anche all'interno uno psicologo perché secondo noi lo Stato, in questo caso noi cittadini ci trasformiamo in Stato, deve essere un consulente collaboratore del cittadino contribuente, non deve essere un'entità astratta e cattiva come è purtroppo Equitalia, che in maniera fredda e astratta interviene, ti chiede i soldi, se non glieli ridai che fa? Dopo pochi mesi ti pignora la casa e ti rovina la vita. Secondo noi questo non deve assolutamente esistere. E ricordiamo che oltre a Torino siete presenti anche a Cagliari, che credo sia stato il primo dei centri a partire, e in altre 6 o 7 città, non so se vuole ricordare, credo che le informazioni dove si trovano sul vostro... Sul nostro sito, SOS Anti-Equitalia, Movimento 5 Stelle, si trovano tutti i riferimenti specifici con cui contattare per avere informazioni. Non sia mai che uno ha un problema con una cartella di Equitalia. Grazie Toninelli. Grazie a voi, buona giornata. 800 24 00 24, cari ascoltatori, vi aspettiamo per commentare quello che avete sentito, ma anche per raccogliere la nostra provocazione, che oggi è... vi chiediamo di raccontarci gli oggetti più brutti del mondo, gli oggetti di design che avete visto, che vi hanno regalato e che non possiamo fare a meno di dire che sono brutti, orrendi, inutili. Poi quello che piace a me non piace a te, questo l'abbiamo già detto, ma ci sta, no? Intanto raccogliamo le storie, poi dopo chiederemo alla giuria. Segnalateci da chi. Questa è Si può fare, questa che abbiamo appena ascoltato è The Doc dei Sad Side Project. Come sapete noi stiamo sempre in cerca di Si può fare in musica, ovvero se avete delle canzoni. Anzi, prima devo dire che questa canzone, per esempio, che abbiamo appena ascoltato, ci è stata segnalata da Luciano Denaro, che in realtà ci aveva segnalato una canzone settimana scorsa e oggi ci consiglia una canzone che è di suo figlio Gianluca, che è questa The Doc che abbiamo appena fatto sentire. E noi cerchiamo sempre di Si può fare in musica, ovvero se siete dei compositori, dei cantanti, dei musicisti o anche semplicemente degli ascoltatori e sentite una musica, una canzone che secondo voi racchiude bene il concetto di si può fare, vi chiediamo di segnalarcela. Di segnalarcela, così la mettiamo nella nostra playlist e la mettiamo anche in onda. Lo potete fare mandandoci una mail a sipuofare@radio24.it oppure segnalatecela sui nostri account social. Quindi si può fare -radio24 per Facebook oppure @sipuofare24 per Twitter. Oppure sui nostri Twitter personali, il mio è @CarloGabardini e il mio @AleMaurizzi. Cari ascoltatori, abbiamo appena sentito da Nino Toninelli il Movimento 5 Stelle su futuro del movimento, ma anche sull'approvazione del nuovo codice etico alla Camera. Fumo negli occhi, dice il Movimento 5 Stelle. Tra poco sentiremo una delle nostre storie. Si può fare, un uomo che ha abbandonato la terraferma per vivere in mare e suonare il suo violoncello. Una storia molto poetica. Adesso spazio agli ascoltatori. Silvia, che chiama da Roma. Buongiorno, benvenuta. Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno, telefonavo per gli oggetti di design. Ne ha uno, Silvia?

quella non vedente che ha recitato Cani e gatti ad Anghiari, quindi l'ho conosciuta personalmente. Ma certo! Di persona personalmente, come direbbe. L'abbraccio moltissimo, signora! Grazie, io ricambio. Veramente. Senta, allora io devo dire, sì, che ho ricevuto una maglietta che avevo ordinato io, che me la dovevano fare a mano, sì, ai ferri, e avevo scelto anche il lavoro che dovevano eseguire, e l'hanno eseguito benissimo, la maglietta era bellissima, se non fosse che il colore era un colore che io ho definito, non fosse, qui lo posso dire, a teatro si può dire, dica tutto, dica tutto, dica. Era color merda. Ai, avevo sbagliato il colore. Non l'ho mai messa, e non l'ho potuta nemmeno riciclare. Ma scusi, ma chi gliel'ha fatta? Era questa... un colore bruttissimo. Ma lei dalla sarta si è fatta fare questa maglia? Che poi ha sbagliato, sì, il colore. Però siccome era un regalo da parte sua, non ho scelto il colore, non ho scelto la lana, non ho scelto niente, io ho scelto tutto lei. L'ha regalato, diciamo, e che alla fine ha fatto questa brutta fine. Grazie Maria. Diciamo che la maglietta color merda entra di diritto tra gli oggetti, assolutamente, in questo caso non proprio di design, ma insomma più assurdi e brutti, e quindi la candidiamo. Poi io la metterei, diciamo, anche, nel senso che non mi agita moltissimo il colore, forse mi agita di più il fatto che sia fatta ai ferri, devo dire, una maglietta tutta fatta ai ferri forse su di me non starebbe molto bene. Perché? Beh, fatta ai ferri vuol dire che è di lana, sì, fatta, sì, con, sì, i ferri. Coi, beh, non so, io non metto molte, ma proprio va bene. È una questione di stile. Oggi in regia abbiamo qualche intoppo. Mi sono spaventato moltissimo. Si è bloccato tutto. Vabbè, non importa. E quindi canto io adesso. Abbiamo normalmente l'intro musicale della notizia, ma se l'intro musicale non l'abbiamo, salutiamo direttamente Giovanni Lo Storto, direttore generale della LUIS. Buongiorno a tutti. Buongiorno. Eccolo qua. Allora, per parlare di una iniziativa con cui chiudiamo la puntata di oggi, una iniziativa che riguarda i giovani, a noi giovani ci piacciono, non facciamo più parte della categoria, almeno io, da un po', diciamo così, insomma, però siamo lì, dai, siamo borderline, siamo tutti giovani, dentro, siamo tutti ex giovani. Diversamente giovani, i Millennials d'Italia al Festival dei Giovani di Gaeta, una iniziativa che vede protagonista anche proprio la LUIS. Ci racconta tutto? Sì, ieri mattina Quasimodo Alessandro, il figlio del premio Nobel Salvatore Quasimodo, proprio al Festival dei Giovani ci ha ricordato che tutti quanti noi abbiamo il fanciullino dentro, quindi in realtà siamo giovani tutti. E devo dirvi che fare una passeggiata tra le strade di Gaeta in questi giorni è straordinario, perché Gaeta è invasa in questo incredibile slow mob, cioè una manifestazione che occupa per 3 giorni Gaeta da giovani che hanno... sono contagiosi della loro voglia di fare. Io vi ho ascoltati prima, non so se è così vero che viviamo l'epoca della non voglia di assumersi rischi, forse appartiene più a noi o più a chi non si è reso conto che la crisi si supera assumendosi nuovi rischi, ma se guardate negli occhi, dritti negli occhi, questi ragazzi che hanno tra i 15, 16 e 17 anni, loro hanno una grande, enorme voglia di mettere le mani sui propri sogni prendendosi tutti i rischi che devono prendere. La parola, loro sì, sono molto d'accordo. La parola sì. Rischi è fondamentale. Quello che diceva Soldatini è che spesso chi sogna di cambiare vita poi ha paura di assumersi anche solo un rischio e così non vai da nessuna parte. La lezione invece che ci viene anche dal Festival dei Giovani di Gaeta è che viva i rischi, viva la vita. Cosa prevede il programma di questo festival? Il programma è ricchissimo, è il primo festival dei giovani che nasce da questa idea di Noi Siamo Futuro, una community di 15.000 giovani animata da Fulvio Guazzone, e che è partita da una indagine che diceva che i ragazzi si sentono dire normalmente come risposta ai loro sogni dai noi adulti lascia perdere che è meglio. E per combattere questo lascia perdere che è meglio ci sono questi 3 giorni con più di 100 eventi dove si parla di social e di sociale, di cittadinanza attiva, di legalità, di nuovi media, di narrativa e poesia, di start-up, di alternanza tutto, al lavoro, tutto quello che può essere l'orizzonte dei giovani. Tutti i temi che sono al centro della voglia e dei desideri dei ragazzi. Benissimo, noi ringraziamo, siamo in chiusura, Giovanni Lo Storto, direttore generale della LUIS, che è partner di questa iniziativa e promuove il Festival dei Giovani di Gaeta. Quindi c'è tempo fino a quando per andare? C'è tempo fino ad oggi, termina oggi alle 2, però è soltanto la prima edizione. Abbiamo imparato in questo numero 0 del Festival dei Giovani di quest'anno a Gaeta che i ragazzi hanno veramente tantissimo da dire e da insegnare. E quindi ci saranno anche delle nuove edizioni. Grazie per essere stato con noi. Grazie mille. Buon sabato a tutti, a anche perché siamo in chiusura. Giusto il tempo di dire che il premio di oggi, biglietti e catalogo della mostra di Miro al Mudec di Milano, lo vince Carlo da Padova con il suo kit per tagliare i peli del naso. Oggetto assurdo. No, per pettinare i peli nel naso, giusto, per fare un doppio baffo, un mini pettino per i peli del naso e delle sopracciglia. Grazie ad Andrea Piana, Claudio Schiattone, Carmelo Lecella in regia. Quest'oggi noi ci risentiamo domani alle 8:30 con Si può fare. Ciao a tutti da Alessio Maurizi e da Carlo Gabardini. Ciao e a chi ci ascolta in podcast.